24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio parliamo di quello che è successo al largo di Israele con l'assalto da parte dei comandos israeliani a questo gruppo di navi che volevano forzare il blocco navale, portare aiuti umanitari a Gaza, un assalto finito in tragedia. Non si capisce ancora bene quante siano le vittime, almeno 10. Vi chiediamo, secondo voi Israele ha reagito con un eccesso di forza, esagerato con l'uso della forza? Dovete votare su radio24.it nella home page, bianco o nero, votate lì. Ne parleremo approfonditamente alle 8:30, ma certo questa è l'apertura pressoché unanime dei giornali che andiamo a sfogliare. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. A dir la verità c'è anche la vicenda manovra finanziaria e il discorso ieri del governatore di Banca Italia Draghi, che tiene banco sui giornali. L'apertura del Sole per esempio su questo: Draghi attacca gli evasori fiscali, tagli inevitabili ora la crescita. Ma certo quello che è successo con gli strascichi, le polemiche, i commenti, le possibili ripercussioni al largo della striscia di Gaza è invece l'apertura della maggior parte degli altri giornali. Il blitz israeliano finisce in strage per il Corriere della Sera. Strage sulla nave dei pacifisti per Repubblica. Blitz sulla nave, processo a Israele per La Stampa. Sentite qui il giornale. Vittorio Feltri non ha mai paura di fare titoli molto forti. Israele ha fatto bene a sparare. Questo è il titolo di apertura del giornale. Strage sulla nave degli aiuti per Il Messaggero. E poi Israele spara sulla pace per Il Fatto Quotidiano, stato di guerra per L'Unità, con c'è una bandiera della pace, i colori dell'arcobaleno sforacchiati con il sangue grondante che esce dai buchi. Oppure Il Manifesto, lo stato del terrore. E insomma, sicuramente tutte le prime pagine sono dedicate a questa, che è una notizia non solo di cronaca internazionale, ma sta diventando e rischia di diventare una situazione di crisi internazionale. Ore 4, il colonnello Z va all'assalto, è la cronaca a pagina 3 di Francesco Battistini del Corriere della Sera, con tutte le versioni, le doppie versioni, perché ovviamente c'è la versione dell'esercito israeliano e c'è la versione delle persone che erano a bordo di questa Mavi Marmara, una delle 6 navi che sono state approcciate dall'esercito israeliano che volevano forzare il blocco della striscia di Gaza per portare aiuti umanitari. Israele ha detto non ve lo permetteremo. Da qui l'assalto, il blitz su queste navi. In uno di questi blitz però è finito con un conflitto a fuoco, o meglio un conflitto a fuoco, un attacco, diciamo, alcune immagini, un tentativo pare di difesa da parte, o comunque di assalto da parte di questi sulla nave, e l'esercito israeliano ha aperto il fuoco. Quante siano le vittime ancora non è dato a capire, pare una decina. Certo, già i commenti sono di diverso tipo e molto netti. Per esempio David Grossman, che è uno scrittore israeliano pacifista su Repubblica: è stato un atto criminale, israeliano David Grossman, nessuna spiegazione per giustificare o mascherare il crimine commesso da Israele e nessun pretesto può motivare l'idiozia del suo governo e del suo esercito. Israele non ha inviato i suoi soldati a uccidere civili a sangue freddo, in pratica era l'ultima cosa che voleva accadesse, eppure una piccola organizzazione turca, dall'ideologia fanatica e religiosa ostile a Israele, ha arruolato alcune centinaia di pacifisti ed è riuscita a far cadere lo Stato ebraico in una trappola proprio perché sapeva come avrebbe reagito e fino a che punto era condannato a fare ciò che ha fatto. Insomma, David Grossman dice quanto deve sentirsi insicura, confusa e spaventata una nazione per comportarsi come ha fatto Israele. Così anche un altro intellettuale israeliano, Avram Yoshua, sulla Stampa fa un'intervista, pagina 7, dice: è stato un blitz stupido, una reazione esagerata. Non avrei mai immaginato potesse finire in un bagno di sangue. Potevano benissimo anche nascondere qualche pistola, qualche fucile, persino qualche granata, questi a bordo della nave. Ma non mi spiego che cosa sia successo e come mai sia successa una cosa del genere. La difesa, come ha detto Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, è molto netto. Israele ha fatto bene a sparare. C'è un editoriale di Vittorio Feltri che inizia proprio così: quello che stiamo per dire non piacerà a tutti, meglio dirlo prima, perché conosciamo molti polli italiani e i loro sentimenti anti-israeliani. Ci sono poi le due versioni, la versione israeliana, la versione turca, su quello che è successo. Il minimo che dovevano aspettarsi quelli della Freedom Flotilla, scrive Feltri, era una raffica di mitra. Viceversa, sono andati avanti come una tranquillità ai limiti dell'incoscienza. Ovvio non abbiano trovato un sorridente comitato di accoglienza. E per concludere, desideriamo ricordare ai signori pacifisti che si agiscono da supporto ai terroristi, tanto pacifisti non sono, semmai complici dei seminatori di morte, e che la regola madre è quella di occuparsi dei casi propri, così non ci sarebbero più le guerre e nemmeno i pacifisti. Molto duro, molto netto, Vittorio Feltri, mentre negli editoriali del Foglio di Giuliano Ferrara c'è un editoriale in difesa di Israele, questo è il titolo, ma certo l'editoriale non risparmia qualche critica allo Stato israeliano, perché da tempo era noto che una flottiglia di provocatori politici messa su con la complicità di nemici in armi di Israele voleva forzare il blocco di Gaza. Israele, si legge in questo editoriale, è sempre in una specialissima situazione etico-politica, ha il diritto di difendersi, ma purtroppo non ha il diritto di sbagliare. Certo, però, conclude l'editoriale, è doloroso e folle quello che è accaduto a bordo di quelle navi. È inaudito ipotizzare che Israele non abbia il diritto, il dovere di reagire a provocazioni politiche, alla violenza degli umanitari e pacifisti alleati di Teheran, a folle tumultuanti alleati della nuova propaganda di Erdogan, ma non così. Cioè la critica è questa, reagire ma non così. Lo stato del terrore, il manifesto in prima pagina, ci sono anche delle vignette sui giornali, per esempio Vauro, proprio in prima pagina ci sono degli elicotteri israeliani che sorvolano sul mare dove galleggia senza vita la colomba della pace. Mar morto, questo è Vauro in prima pagina sul manifesto, così come Staino a pagina 3 dell'Unità. I militari israeliani assicurano di aver trovato armi su una nave dei pacifisti. E come si chiamava la nave? Diaz? Riferimento ovviamente alla scuola del G8. Vittorio Darold a pagina 17 del Sole ci ricorda anche chi è la ONG turca che ha organizzato una di queste navi, vale a dire la IHH, Insani Yardin Vakfi, una fondazione per l'aiuto umanitario che secondo molti analisti in realtà aiuta i movimenti e foraggia i movimenti islamici più integralisti, secondo un rapporto del Centro Israeliano di Intelligence e Terrorismo. Questa organizzazione sarebbe un'organizzazione radicale islamica antioccidentale e il suo fondatore avrebbe stretto legami con il leader di Hamas a Damasco e coi fratelli musulmani in Egitto. Sta di fatto, le polemiche sono notevoli sui giornali. È riunito ancora in seduta continua, in seduta anche notturna, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Vi daremo conto ovviamente delle novità. E ne parleremo poi alle 8:30. Io vi invito ancora a votare. Secondo voi Israele ha esagerato nell'uso della forza? Questa è la domanda che ci poniamo per poi discutere di quello che è successo. Dovete votare su radio24.it e voglio andare alle notizie italiane. Certo, tiene banco il discorso che il governatore di Banca Italia, la relazione di Mario Draghi ieri. Come detto, l'apertura del Sole 24 Ore, si è parlato della manovra, ma soprattutto Draghi ha fatto questo duro atto d'accusa contro gli evasori fiscali. Sono loro coloro che fanno la macelleria sociale, no? Questo termine macelleria sociale è stato spesso utilizzato in questi giorni. Per Draghi sono gli evasori fiscali, per esempio solo l'evasione dell'IVA tra il 2005 e il 2008, in 3 anni è andata al 30%, e ci è costato quanto? 2 punti in media di PIL all'anno, circa 30 miliardi. Allora, se le stime rivista al rialzo del Sole 24 Ore qualche giorno fa dell'evasione fiscale, 120 miliardi all'anno, 30 miliardi fanno un quarto, il 25% di questa evasione fiscale dovuta all'evasione dell'IVA. Con la lotta all'evasione, ridurre le tasse, sottratti 30 miliardi l'anno di IVA, il 2% del PIL. E poi, insomma, Draghi ha parlato di corruzione diffusa tra i privati, tra la pubblica amministrazione, favorita anche dalla mafia. Insomma, una relazione da questo punto di vista molto dura. Un Draghi che però ha dato anche il sì alla manovra, che è l'altro grande tema che tiene banco sui giornali. Ieri parlavamo delle polemiche per gli stralci agli enti della cultura, e cioè questa lista di 232 enti a cui lo Stato ha deciso, come avete sentito anche ieri Calderoli, non ci hanno fatto sapere nulla di quello che fanno e noi gli tagliamo i fondi così. Li avevamo invitati a dirci qualcosa, non ci hanno detto niente, tagliati tutti i fondi, una lista di 232 enti. A Napolitano questa cosa non è piaciuta, e la manovra è stata firmata da Napolitano ieri, ma questi tagli agli enti culturali non ci sono più, sono stati tolti. Ora non voglio paragonare al taglio delle province che erano resistite come taglio 12 ore, poi erano tolti, registro solo questo fatto. Sono probabilmente cose diverse, anzi sicuramente cose diverse. Dalla parte magari dei tagli sono auspicabili, come nelle province, in questo caso magari un po' meno, però il dato di fatto è questo: sono stati stralciati i tagli agli enti culturali. Ne scrive Dino Pesole a pagina 13 del Sole, e ora sarà Bondi a potare. Alla fine, scrive Antonello Cherchi, sotto l'articolo più importante, quello di Dino Pesole, alla fine l'ha spuntata il ministro Sandro Bondi, quello che ieri ha detto: mi hanno esautorato. Sandro Bondi, che, scrive Cherchi, sulle prime aveva messo anche la sua sbadata firma su una manovra che conteneva una lista di 232 enti a cui lo Stato chiudeva completamente il rubinetto dei finanziamenti. Ora è scomparsa questa lista, la norma che prevedeva la cancellazione delle risorse è stata riformulata in maniera più soft, sarà direttamente lo stesso Bondi che entro 2 mesi dovrà mettere a punto un decreto con una nuova lista di finanziamenti. Quindi attenzione, non è che scompare tutto. Ora sarà Bondi entro i prossimi 2 mesi a decidere questa lista di finanziamenti, tanto che la stampa, la manovra dimezza la stangata alla cultura. Ci sono ancora varie interviste di operatori nel settore culturale che dicono sono tagli sbagliati, non vanno bene. C'è poi il retroscena politico, vale a dire, sì, Berlusconi, il cavaliere, ora è felice delle bacchettate del Colle. Ne parla Ugo Magri sulla stampa, pagina 13. Perché il cavaliere è felice delle bacchettate del Colle? Perché intanto è felice sia anche dell'applauso di Mario Draghi, ovviamente ha incassato il sì alla manovra da parte del governatore di Banca Italia, ma ciò che lascia di sale, scrive Ugo Magri, certi frequentatori del Colle, è la gioia con cui il cavaliere ha accolto le bacchettate del presidente, facendogli giungere riservatamente le più sentite espressioni di stima. E siccome Silvio Berlusconi masochista non è, la sua felicità viene così spiegata. Giulio Tremonti ha dovuto fare macchina indietro. Con l'aiuto di Napolitano vale d'ora in avanti il principio che i tagli ogni ministro se li gestisce da sé. Non vengono somministrati dal tesoro con cieco rigore. Ecco dunque il retroscena politico secondo i vari giornali. C'è un Berlusconi che sarebbe gongolante perché con l'aiuto di Napolitano, che ha detto no, questi tagli, soprattutto ad alcuni enti che venivano addirittura fatti sparire, che sono delle eccellenze in Italia, non mi stanno bene, e soprattutto questi tagli rozzi, indiscriminati, questa lista di 232 enti culturali a cui lo Stato non dà più un euro, non vanno bene. E allora ecco che Berlusconi in qualche modo riguadagna punti laddove Tremonti, visto che è identificata come la manovra di Tremonti, ne ha perso qualcuno. E infatti su Repubblica addirittura un altro retroscena di Berlusconi, e ora altre modifiche in Parlamento. La rivincita di Berlusconi su Tremonti. Berlusconi è riuscito a piegare la resistenza del ministro dell'economia, scrive Francesco Bei. Quanto ai minori tagli che queste modifiche comporteranno, il governo ha già pronta la carta per rimediare. i singoli dettagli potranno cambiare anche in Parlamento. Dunque, un Berlusconi che starebbe in qualche modo prospettando di cambiare qualcosa anche in Parlamento. In primo piano. L'ira del cavaliere su Gianfranco. È scorretto, così fa saltare tutto. È Liana Milella che ne parla su Repubblica, ma anche sul Corriere. Il cavaliere convoca i vertici del PDL, il presidente della Camera accusato di conflitto di interessi. Allora, cosa è successo ieri? Ieri era il primo giorno della legge sulle intercettazioni al Senato e Fini ha fatto dei rilievi critici, dei rilievi insomma sulla legge. A questo punto pare che insomma in qualche modo sia riemerso questo contrasto mai sopito che sembrava un po' sotto traccia, covava sotto le ceneri, tra Berlusconi e Fini. Se l'aspettavano l'uscita di Fini, scrive Liana Milella su Repubblica, ma non così. Erano convinti di trovarsi nei giornali del weekend un'intervista di Giulia Bongiorno con i dubbi sulla legge. Giulia Bongiorno è una finiana doc. Ma certo non queste critiche dirette di Fini. E dunque roventi le telefonate del cavaliere che, secondo anche il Corriere, avrebbe dettato la linea, e cioè violento lo scontro è riesploso, il premier non ha parlato ufficialmente, ma una raffica di durissime dichiarazioni dei suoi fedelissimi ha insospettito il presidente della Camera. Cioè Berlusconi avrebbe detto ai suoi sodali, insomma, ai suoi uomini fedeli, di fare dichiarazioni, cosa che ci sono state effettivamente, dichiarazioni molto dure nei confronti della uscita del presidente della Camera Fini. Insomma, Fini Berlusconi, il termometro segna un pochino di maretta di questi tempi. Visto che continua l'idea dei tagli, no? I tagli, i giornali si esercitano su dove bisogna tagliare. Oggi Libero se la prende con Libero, il giornale soprattutto, ma Libero, è ripartita questa idea dell'attacco alla casta. Libero se la prende soprattutto con i magistrati che vogliono scioperare per il taglio agli stipendi, toghe come la CGIL, sciopero per la paga. E poi con chi? Con la Banca d'Italia, proprio la banca, quella Banca d'Italia a cui ieri il governatore ha fatto la relazione finale. Il governatore approva i tagli di Tremonti e Franco Bechis dice: beh, Draghi si tiene il suo tesoro e ringrazia. Per Banca Italia più soldi e meno lavoro, stipendi più alti, la Banca d'Italia non fa la dieta. Ed ecco qua, i nostri soldi, no? Questo è il titoletto, i nostri soldi, oggi Franco Bechis e oggi Libero se la prende con la Banca d'Italia che non avrebbe tagliato, ma anche con la protezione civile, guardate, proprio è l'assalto alla casta, blizza la protezione civile, a pagina 7, 178 assunti, in piena finanziaria, poco prima dell'addio di Bertolaso, l'associazione decide di contrattualizzare 165 figure non dirigenziali e 13 nuovi manager. Ecco qui. E a proposito di tagli, ieri era stata spettacolare questo accenno che Calderoli, il ministro Calderoli, aveva fatto su un appalto sui water della regione Lazio. E allora, un appalto d'oro. Tanto che oggi il Corriere ci torna con Francesco Di Frischia. Lazio, i water di lusso svelati da Calderoli. E allora sono andati dalla ditta FEAM SRL, la ditta che fornisce i copritavoletta sterili per i water dei bagni di tutti gli uffici di giunta e assessorati del Lazio. Ecco le spiegazioni. La regione Lazio spende 500.000 euro l'anno per manutenzione, pulizia e sostituzione di materiali di ricambio sul sedile elettronico, come viene chiamato il dispositivo che copre il WC. Si tratta di un servizio che riguarda 800 bagni e funziona così: si tira l'acqua, si preme un pulsante rosso posto di lato, si sostituisce completamente la pellicola plastificata che copre la tavoletta del water. A conti fatti, si difende la ditta, il servizio costa 52 euro al mese per ogni bagno. L'utente ha le massime garanzie igienico-sanitarie, ogni giorno 5 nostri addetti ispezionano gli 800 bagni, cambiano la bobina con le pellicole, le batterie, puliscono la tazza e attraverso il sedile elettronico si evitano che finiscano nello scarico giornali o altro materiale che ostruisce i tubi finendo nelle fogne. La Polverini dice: stiamo vedendo come rimodulare questo appalto, perché abbiamo delle splendide tavolette, ma ci sono i water che perdono. E l'ex PD Esterino Montino, vicepresidente della regione, dice al ministro Calderoli: non resta che attaccarsi ai cessi. E va bene, vado alle segnalazioni conclusive. La vicenda è un po' complicata, non ho tempo per riepilogarla, ma siccome la notizia la dà solo il Corriere con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, Paolo Berlusconi indagato per il nastro su Fassino, pagina 22, è la vicenda, i PM di Milano accusano l'editore del giornale, il fratello di Silvio Berlusconi, di ricettazione, di aver preso quel nastro in cui c'era la famosa telefonata "abbiamo una banca", un file audio di Fassino, averlo ascoltato in qualche modo insieme a Silvio Berlusconi e poi averlo fatto pubblicare sul giornale quando non era neanche agli atti. I PM accusano l'editore del giornale, ricettazione. Ci ha spiegato anche perché hanno accusato Paolo Berlusconi, mentre non è indagato Silvio Berlusconi, che secondo la ricostruzione avrebbe comunque anche lui ascoltato il nastro. Siamo in chiusura. Voglio leggere Gene Gnocchi, da un po' di tempo che non lo leggo. Il rompipallone in prima pagina della Gazzetta: brutta sorpresa per Mourinho alla prima conferenza stampa in Spagna, ci sono i giornalisti anche lì. E allora votate su radio24.it in bianco o nero il nostro sondaggio: secondo voi Israele ha usato troppo la forza, ha esagerato l'uso della forza? Questa è la nostra domanda. Sono le 8:18 minuti, eccoci qua, 24 mattino, è il momento di Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Deborah, buongiorno. Buongiorno, hai paura degli spettri? Degli spettri, no. Sai che oggi parliamo di degli case fantasma. Specchi, forse, no. Parliamo di case fantasma oggi, ma non di quelle dove si agitano delle entità misteriose. Parliamo proprio di quelle che devono venire alla luce, devono essere, come dire, devono emergere ai fini fiscali. Pensavo sempre quelle di cui hai fatto la rassegna stampa ieri. No, sì, pensavo sempre di quelle di cui non si sa chi le ha pagate. Una parte. Anche lì, acquirenti e pagatori fantasma. Allora, giornate a tema, a soldi e dintorni, a Salvadanaio, nei giorni di approvazione della manovra finanziaria correttiva sui conti pubblici, che ieri ha avuto la firma del Presidente della Repubblica Napolitano e quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ieri mattina abbiamo parlato delle novità che riguardano i libretti di risparmio. A Salvadanaio ieri e oggi si parla di pensioni, oggi ci focalizzeremo alle 12 su quelle di invalidità. Stamattina invece entriamo a soldi in un tema un po' spinoso che ha fatto storcere il naso a parecchi cittadini e a molti anche amministratori. Parliamo, come si potrebbe definire, della sanatoria, della regolarizzazione degli immobili non iscritti al catasto presenti in Italia, di emersione da situazioni di abusivismo. Buongiorno a Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore, che ha scritto ieri un bel articolo, insomma, su questo argomento, sulle pagine del lunedì del Sole. Cristiano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche il governatore della Banca d'Italia ha parlato ieri di evasione fiscale come macelleria sociale. Sicuramente il settore immobiliare è pervaso da questo problema da sempre. Allora, le case fantasma, intitolava il tuo pezzo, alla resa dei conti, dovessero approfittare tutti della regolarizzazione, ci sarebbero sindaci, attacca il tuo pezzo, costretti a far arrivare le ruspe da altre città, soprattutto in Campania e in Sicilia, dove si trovano quasi 600.000 dei 2 milioni di case fantasma, ma questo scenario, oggi come oggi, appare altamente improbabile. Quello delle ruspe, Cristiano, ma non quello degli accertamenti e dell'emersione. Come siamo arrivati a questa cifra di 2 milioni di case fantasma? Beh, diciamo subito che l'operazione è partita qualche anno fa, l'ha affidata all'Agenzia del Territorio un decreto legge del 2006 che sostanzialmente ha stabilito appunto che l'Agenzia del Territorio, in tandem con l'AGEA, che è un'altra agenzia che si occupa di agevolazioni in agricoltura e che ha sostanzialmente una dotazione di piccoli aerei con cui ha fatto una serie di rilievi dall'alto, quindi una serie di fotografie, e quindi l'Agenzia del Territorio e l'AGEA hanno fotografato tutto il territorio e hanno sovrapposto queste loro immagini dall'alto con le mappe catastali, andando a individuare i contorni, diciamo così, degli edifici che non apparivano sulle mappe e che quindi in questo modo non risultavano essere appunto dichiarati in catasto. In tutto con questa operazione sono stati individuati poco più di 2 milioni di particelle. Integralmente ex novo in sostanza, ma per esempio ci possono essere porzioni di abitazioni, quindi poi una situazione piuttosto articolata. Quindi si tratta di particelle nel gergo immobiliare. Sì, esatto, sono sostanzialmente pezzettini di mappa, potremmo dire, per capirci. Pezzettini di mappa su cui c'è qualcosa che non è perfettamente allineato alla situazione che risulta dichiarata in catasto. Quindi possono essere abitazioni da regolarizzare, ma anche magazzini, garage, che cos'altro, Cristiano? Sì, sostanzialmente possono essere. Intanto possiamo immaginare ampliamenti, magari, quindi piccoli ingrandimenti di abitazioni. Poi possono essere garage, possono essere sicuramente magazzini, possono essere edifici integralmente non accatastati, costruiti da zero, e poi ci possono essere anche altre tipologie, diciamo, altre casistiche che non dovrebbero essere accatastate e che quindi in qualche modo rientrano nella normalità. Ad esempio, possono esserci delle tettoie mobili che dall'alto hanno più o meno un profilo identico a quello di un'abitazione e che poi invece si rivelano appunto cose, diciamo così, che non devono essere effettivamente regolarizzate. Ma questo è del tutto normale, l'Agenzia del Territorio lo sapeva, tant'è vero che quando appunto sono stati ultimati questi rilievi sono state fatte 3 pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale tra il 2007 e il 2009 e ogni volta dopo ogni tornata di elenchi di particelle pubblicati i proprietari hanno avuto 7 mesi di tempo per mettersi in regola, diciamo, spontaneamente. Dopodiché soltanto dopo che è scaduto il termine i tecnici del territorio hanno avviato gli accertamenti d'ufficio, ecco, quindi questo è importante. E allora praticamente qual è la novità che viene apportata dalla manovra correttiva sui conti pubblici? Perché c'è un nuovo termine, quello del 31 dicembre, per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, quindi molte particelle in realtà non sono state regolarizzate fino al catasto. Assolutamente. Diciamo che cosa è successo finora? Finora c'è stato l'accertamento d'ufficio da parte del territorio su un po' più di 500.000 di questi 2 milioni di particelle e poi ci sono state 208.000 unità immobiliari, quindi non particelle in questo caso, ma in questo caso vere e proprie unità immobiliari, che sono state accatastate spontaneamente. Su tutto il resto la questione resta ibrida, nel senso che l'ultimo elenco pubblicato a dicembre del 2009 ha ancora aperto il termine dei 7 mesi. Gli altri 2 elenchi precedenti ovviamente hanno il termine scaduto. Cosa fa adesso la manovra finanziaria? Riapre questo termine, esatto, lo apre fino al 31 dicembre e dà ai proprietari la possibilità di presentare degli atti di aggiornamento catastale, quindi di sistemare la propria situazione sotto il profilo fiscale. Senza alcuno sconto fiscale, peraltro, come era originariamente previsto dalla manovra. Ieri abbiamo avuto conferma con il decreto pubblicato in Gazzetta che non c'è, come dire, una sorta di condono ai fini fiscali, come per esempio succede per lo scudo, no? Per il rientro dei capitali dall'estero, Cristiano. Esatto. La prima versione del decreto prevedeva una serie di agevolazioni per chi si metteva in regola, queste sono poi sparite, diciamo così, dalla versione che è finita in Gazzetta Ufficiale, quindi gli sconti non ci sono. C'è però da dire che il vero nodo, la vera difficoltà non sarà tanto l'assenza di sconti fiscali, sarà piuttosto il profilo edilizio e urbanistico. Ecco perché sì, si accennava alle ruspe in precedenza. Per quale motivo? Perché una parte di questi edifici non sono stati accatastati per trascuratezza, per piccoli errori, per magari una piccola parte anche in buona fede. Chi invece proprio in cattiva fede non ha regolarizzato la posizione in 30 secondi, Cristiano? Che dobbiamo chiudere? Chi non l'ha fatto è perché evidentemente non poteva farlo, perché si trattava di un immobile che non poteva essere costruito lì. Certo. E quindi questo problema rimane e rimarrà. Ed ecco perché qualcuno ha detto: attenzione, non aspettiamo che i proprietari si vadano ad autodenunciare per mettersi in regola col fisco e farsi poi demolire l'edificio che è abusivo. Questo rimane un punto di domanda ed è una questione che in qualche modo resta aperta e dovrà essere affrontata. E che magari nel corso del dibattito parlamentare, certo. Cristiano, grazie per essere stato con noi, magari ci ritorneremo a Salvadanaio prossimamente con un approfondimento ulteriore. Per ora buona giornata, presto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Alessandro, come anticipavo, oggi le pensioni di invalidità, la stretta anche in questo ambito sempre prevista benissimo dalla manovra. Domani ciao. È festa, ci sei? Ci sono, anch'io. Anche tu. Benissimo. Bene. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan e allora parliamo oggi di quello che è avvenuto ieri al largo di Israele, questa vicenda tragica che sta diventando un caso davvero internazionale. Sono notizie anche di poco fa, visto che si è conclusa la seduta straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, sono tanti gli ospiti e parliamo ovviamente di quello che è successo ieri. Quello che vi chiediamo su Radio24.it, dovete votare se secondo voi Israele abbia esagerato nell'uso della forza. I fatti ovviamente sono ancora da chiarire, le ricostruzioni sono diverse. Quello che c'è per certo è che ci sarebbero una decina di morti, ma anche qui una decina, non si sa il numero preciso. Ieri il blitz delle forze dell'esercito israeliano su una delle navi, soprattutto del Freedom Flotilla, che volevano portare aiuti umanitari alla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ovviamente non ha voluto far passare queste navi, ma poi la situazione è degenerata con l'esercito israeliano che ha aperto il fuoco e appunto una decina di persone, queste sono le notizie che si sa, sarebbero vittime e sono rimaste uccise. Ovviamente poco fa l'ONU ha condannato il gesto, ha parlato poco fa dopo una riunione fiume di 12 ore, la condanna per le vite umane che si sono perse. Leggo delle agenzie, proprio ha condannato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli atti sfociati nella perdita di vite umane durante l'operazione israeliana contro la flottiglia di attivisti filo palestinesi. Non c'è stata però una condanna dello Stato di Israele da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Come detto, sono tanti ospiti, io intanto vorrei salutare in apertura Fernando Lattarullo, buongiorno. Buongiorno. Lei è il marito di Angela Lano, uno dei sei italiani, non quattro, questa è un'agenzia che è uscita in questo istante, sei italiani che erano a bordo di una di queste navi e che sono al momento, questo danno le agenzie, tutti detenuti. Lei sa qualcosa di sua moglie? Sì, io non sono riuscito a parlare con Angela ovviamente. Da quello che ci ha detto la Farnesina, lei si trova in stato di fermo in questa base in Israele, perché da quello che ci ha detto la Farnesina, loro per poter uscire da questa base e essere immediatamente espulsi dal paese dovrebbero firmare un atto di accusa al quale dicono che loro hanno commesso praticamente un attentato terroristico nei confronti di Israele, perciò siamo alla follia, no? Israele ha preso queste persone in acque internazionali, li ha sequestrati e li ha portati in una base militare dove loro sono senza nessun tipo di comunicazione con i propri familiari, no? E loro per poter uscire dovrebbero firmare un documento dove loro praticamente dicono che loro hanno commesso un atto terroristico nei confronti dello Stato. Allora, su questo ovviamente si può discutere, sono detenuti, essendo detenuti, poi si può discutere se ha ragione o torto, essendo detenuti è abbastanza comprensibile che non possano parlare, insomma, essendo in fase di in un momento di detenzione, no? Sì, ma se mi ascolti, loro devono firmare un documento del genere per poter uscire. E su questo si può discutere. Lei dice assolutamente incredibile che debbano firmare un documento di aver fatto un attentato terroristico, no? Esatto. Comunque voi non sapete nulla, cioè lei non sa nulla al momento della situazione di sua moglie. No, assolutamente. Cioè, sappiamo che forse è lì. Lei sa almeno se era su quella nave, perché erano diverse le navi, su una soprattutto è successo quello che è successo, insomma, con le uccisioni. Sì, certo, so che era su una delle navi, non so esattamente. Non sa se era su quella nave. Sulla nave turca? Sì. Ma sulla nave turca lei non era, lei era sulla nave Otonilla. Perfetto. Va bene, intanto per il momento la ringrazio, signor Lattarullo, come ha detto il marito di Angela Lano. Io voglio salutare sia Angelo Pezzana, giornalista di Libero, buongiorno. Buongiorno. E Luisa Morgantini, buongiorno, ci parla dalla Spagna, credo. Buongiorno Luisa Morgantini. Angelo Pezzana, lei oggi su Libero ha scritto: è stata una giusta risposta, hanno rifiutato i controlli, sapevano insomma che più volte la marina israeliana le aveva detto qua non si passa, non si può forzare il blocco, è stata una sorta di provocazione umanitaria. Le faccio la domanda diretta, perché oggi Vittorio Feltri titola sul giornale in prima pagina: Israele ha fatto bene a sparare. Lei condivide questa analisi molto molto dura? Io la condivido in pieno. E vorrei però sottolineare due aspetti. Uno, che mi ha molto colpito, il rifiuto da parte di questi pacifisti armati all'offerta di Israele di controllare le merci contenute sulle navi nel porto di Ashdod, dopodiché, se tutto era in regola, sarebbero proseguite con l'assistenza anche dell'ONU verso Gaza. Quindi questo avrebbe risolto tutto pacificamente. Invece c'è stato il rifiuto, il che dice chiaramente quali erano le intenzioni di questi pacifisti armati. Vabbè, era però, provocare Israele e provocare una reazione. Però arrivare al punto da dire rischiare di morire, cioè cos'è? Uno si suicida? Allora, intanto bisogna vedere le dinamiche di quello che è avvenuto. E per fortuna c'è YouTube, ci sono i filmati, chiunque vuole può andarli a vedere. Questi pacifisti erano armati di coltelli lunghi 30 centimetri, ci sono le foto sui quotidiani stamattina. Hanno aggredito i militari israeliani, i quali hanno risposto. In tutte le parti del mondo, se uno assale con un coltello lungo 30 centimetri un militare, ottiene una risposta dura, violenta. Semplicemente non erano pacifisti, sono propagandisti che hanno come obiettivo la delegittimazione di Israele e seguono delle tecniche. Le seguono molto bene perché sono abili. Ma lei crede insomma che due, non so, l'ho visto anch'io quei filmati, che alcune persone, non so, 5, 6, una decina armati di magari una spranga, un coltello, possano pensare di fronteggiare l'esercito israeliano, che è uno che è l'esercito per la testa, però certamente l'hanno fatto. Il blocco navale è dovuto semplicemente al fatto che Gaza è sotto la dittatura di Hamas, che ammazza centinaia di palestinesi che sono fedeli a Abu Mazen, alla NP, nel silenzio totale del mondo intero, dei pacifisti compresi, finché ammazzano altri palestinesi tutti zitti. Questo è il doppio standard, non sono pacifisti, sono propagandisti jihadisti di Hamas. La sua posizione è molto chiara. Vorrei sentire Luisa Morgantini, che ha una posizione diametralmente opposta. E, Morgantini, lei insomma che ne pensa? Giro anche a lei, visto che in Spagna non avrà visto il titolo del giornale. Israele ha fatto bene a sparare, titola oggi il giornale di Vittorio Feltri. Se continuiamo in questo modo veramente a dare a Israele ragione di sparare su civili non armati, nel senso che ho visto anch'io tutti i filmati, dire che erano armati è una cosa improbabile. Certo, hanno risposto, non sono andati loro ad attaccare i soldati nella base militare, ma erano i soldati che sono andati sulla nave attaccando, perché erano pienamente armati, in acque internazionali, quindi violando il diritto. E poi mi sembra che il signor Pezzano non sia molto informato, forse non ha ascoltato il portavoce, anche Netanyahu stesso, il quale ha detto che non ha chiesto alle navi di andare ad Ashdod e poi di proseguire per Gaza, ma aveva suggerito di lasciare le merci ad Ashdod, quindi di non andare con le navi, e poi gli israeliani sarebbero preoccupati loro di mandare le merci a Gaza. Ma questo non è il problema. Propagandisti sono persone nel mondo che si occupano dei diritti umani, alcuni di loro saranno anche islamisti, alcuni forse anche fondamentalisti, non mi interessa, ma è da 3 anni che la popolazione di Gaza subisce una punizione collettiva. Non si punisce Hamas, si punisce la popolazione di Gaza, che è senza possibilità, certo usa i tunnel per avere le merci, sfidando la morte, non per portare le armi, non raccontiamoci storie, forse all'inizio avranno portato anche armi, ma portano merci, tutti i giornalisti lo dicono in tutto il mondo, e la provocazione della nave era non soltanto portare aiuti umanitari, ma rompere l'assedio di Gaza, che è un'indecenza, che è illegale, lo sta chiedendo la comunità internazionale ogni volta. Basta con rovesciare i termini. Cominciamo a pensare, come dice David Grossman, che è uno scrittore israeliano molto conosciuto, Israele con questa politica sta diventando ed è come una pianta carnivora che sta mangiando se stessa, distruggendo anche gli altri. Tra l'altro David Grossman oggi fa... Io credo di riportare alla legalità internazionale anche Israele, per Israele stesso. Devo dire, David Grossman oggi fa anche un intervento pubblicato da Repubblica molto duro. Da questo punto di vista, poi voglio andare a salutare anche un altro ospite che ci sta ascoltando dalla striscia di Gaza, Angelo Pezzana. Le chiedo, oggi, anche poco fa, Frattini ha parlato di errore francamente inesplicabile e grave in assoluto, dal quale Israele potrebbe capire di fare un gesto di distensione e dire moltiplichiamo gli sforzi per la pace. Cioè, nessuno mette in discussione il fatto che siamo alleati di Israele, ma proprio l'amicizia nei confronti dei due stati non ci dovrebbe portare a dire cari amici israeliani, a questa volta avete sbagliato, avete difeso un limite territoriale, ma francamente la reazione, come scrive anche oggi sul Foglio, non si fa così, insomma, ci sono tanti modi, ecco. Ma vede, fare i commenti il giorno dopo è sempre molto facile. Chi è che è contro l'invocazione alla pace? Io credo che tutti siano per la pace e contro la guerra. Il problema è che Israele è sotto assedio dalla Siria, dall'Iran che minaccia di distruggerla, Hamas che è un regime terrorista, dal Libano c'è Hezbollah che minaccia una nuova guerra. Come si fa a fare la pace Non avevano la cintura, non erano esponenti degli Hezbollah con le cinture esplosive. Ma lei guardi dietro a questo chi c'è? C'è la Turchia. La Turchia si è alleata con l'Iran e con la Siria, le navi sono partite dalla Turchia, la Turchia non è più l'alleato europeo come tutti speravamo lo diventasse, è uno Stato che si è unito all'Iran, l'Iran è come la Germania nazista degli anni 30 che minaccia di distruggere uno Stato. Si è parlato di questa ONG HH dietro, fondamentalista turca, però io ripeto, può darsi, come ha detto anche Luisa Margantini, che ci fossero degli esponenti magari dell'islamismo radicale o degli esponenti fondamentalisti, però voglio dire, l'espressione almeno di queste navi non erano delle bombe galleggianti spinte verso le coste di Israele. Comunque, fermiamoci per il traffico. Voglio salutare, solo se ci sente, sono subito da lei, subito dopo il traffico, Vittorio Arrigoni, ci sente? Sento benissimo. Benissimo, si trova nella striscia di Gaza, sono da lei subito dopo il traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Detto che gli ascoltatori che votano su Radio24.it dicono il 58% per ora dice, si può continuare a votare ovviamente, Israele ha esagerato nell'uso della forza. Però Vittorio Arrigoni, attivista per i diritti umani, si trova nella striscia di Gaza dove dovevano arrivare queste navi che ovviamente non sono arrivate, sono state portate nel porto di Ashdod in Israele. Allora le chiedo, Arrigoni, era da giorni che la marina israeliana, le autorità israeliane dicevano care flottiglia, insomma, non venite qui perché non accetteremo mai una violazione dei territori nazionali. Perché c'è stata questa che qualcuno definisce una provocazione umanitaria? Ma infatti non c'era nessuna violazione di territorio internazionale, cioè nazionale israeliano. La flottiglia, la rotta della flottiglia erano acque internazionali e poi acque palestinesi. Vorrei un attimo associarmi a quello che ha detto la Morgantini. Essere attivisti per i diritti umani non significa essere deficienti. A bordo della Freedom Flotilla era legittima la difesa nel momento in cui sono stati attaccati, perché questo è il punto, sono stati assaltati in acque internazionali. Capisce però che nel momento, allora io non voglio giustificare niente, però quando Pezzana dice se i commandos israeliani entrano su una nave e c'è una, lei dice, legittima difesa con le armi che avevano, qualche coltello, una spranga, qualche arma improvvisata, in quella situazione si trasforma in uno scenario tra virgolette di guerra, in cui chi ha il Kalashnikov usa il Kalashnikov e chi ha una spranga usa una spranga. Il problema è che ci rimette chi ha la spranga. Il problema è che nel 2010 io pensavo che non c'erano più i pirati nel Mediterraneo. Comunque volevo dire che qui a Gaza ovviamente siamo tutti molto scioccati, continuano a susseguirsi manifestazioni di cordoglio e di rabbia lungo tutta la striscia, in particolare dinanzi alle Nazioni Unite per chiedere un intervento forte della comunità internazionale. E voglio sottolineare che la missione non è finita, ci sono ancora due barche della flottiglia in questo momento nel Mediterraneo che stanno cercando di raggiungere Gaza. Li aspettiamo nelle prossime 24 ore. Cioè ci sono due altre navi che si stanno avvicinando. Ci sono altre due navi. Io ho parlato con Derek, questo mio, che è il capitano, mio amico, mi ha detto che sono consapevoli e coscienti del massacro dell'altra sera. E vanno avanti. Nonostante questo vanno avanti. Beh, insomma, non so, mi faccia dare un'ascoltatrice che è da lì, Donatella da Pisa, buongiorno, che ne pensa Donatella? Buongiorno. Oggi siamo in tanti, ma insomma. Spero che queste due altre navi accettino i controlli di Israele e poi potranno tranquillamente portare i loro aiuti, i viveri e tutto quello che serve a Gaza. Io vorrei fare una controprovocazione, perché naturalmente sono completamente d'accordo con quanto dice il dottor Pezzana, quindi non lo ripeto. Perché gli attivisti dei diritti umani, che sono tanto attenti a questi diritti umani, non vanno a fare queste provocazioni in Iran, dove ammazzano oppure mettono in galera e buttano via la chiave i dissidenti o gli omosessuali? Però quindi lei dice Israele ha fatto bene a reagire così? Certo, è fondamentale per la sua sopravvivenza, deve controllare. Israele poi gli aiuti li lascia passare, ma deve controllare quello che arriva. Mi sembra ovvio, non capisco come qui però, si possa pensare più che, di andare su quei territori a portare. Donatella, quello che si accusa, l'accusa che è stata fatta allo Stato di Israele è che più che controllare è stato proprio, cioè il controllo manco c'è stato, cioè mandiamo nella notte i commandos e hanno fatto un assalto, proprio come fanno i commandos militari, cioè non è che bussano alla porta e chiedono di entrare, no? Capisce? In acque internazionali c'è stata un'azione di forza, ecco, su questo almeno siamo d'accordo, Donatella. Parti, da una parte c'erano dei militari che comunque hanno preavvisato più volte e hanno chiesto di non forzare il blocco. Ora poi vedremo l'inchiesta che cosa dirà, se hanno avuto torto o hanno esagerato. Sicuramente verrà fuori, non si può dire a priori. In ogni caso Israele ha il diritto di difendere il suo territorio. Va bene, questo è un punto. Sull'inchiesta sull'inchiesta, anche l'ONU ha chiesto un'inchiesta trasparente, sinceramente. Questo è un po', suona un po' come una barzelletta, insomma, un'inchiesta trasparente su questi fatti. Rimarranno sempre versioni diverse. Luisa Morgantini, fanno bene queste due navi ad andare avanti? Oppure si portano, voglio dire, dopo quello che è successo, forse sarebbe io intanto il caso vorrei dire una cosa. Ripetiamo, erano in acque internazionali, sì, nessuno sì ha violato le acque territoriali israeliane. Lo Stato israeliano dice di no, che erano in acque internazionali, vede che tutti già lo sanno, e le navi erano state tutte viste nei porti di partenza, non c'erano armi all'interno. Israele è circondata da nemici. No, però è un'iniziativa araba del 2002 che dice esplicitamente: fate la pace, smettete di costruire insediamenti nei territori occupati palestinesi, due popoli, due stati. E tutti i paesi arabi e non solo riconoscono Israele. Non c'è. Certo, c'è una minaccia iraniana, così come c'è una minaccia israeliana che ha le armi nucleari. Ma smettiamo non so, di dire queste cose. Su questo Pezzano non è d'accordo. Essere davvero un paese. Ma se non c'è nessun israeliano a Gaza, quale fare occupazione? La pace, non fare le guerre. No, forse l'occupazione non si riferiva certo a Gaza, dove l'esercito israeliano già l'ho preso, la interessa a non parlare di Gaza. No, dico, io però volevo citare l'episodio del babbo di Gilad Shalit, che aveva chiesto ai partecipanti alla flottiglia di andare a vedere in quali condizioni è tenuto suo figlio. Vogliamo ricordare che Gilad Shalit è un soldato israeliano che è stato rapito da ormai 4 anni fa. E di che cui non si sa nulla, mai è andata nemmeno la Croce Rossa, non gli è stato permesso. Sono talmente umanitari che hanno risposto al babbo di Gilad: non ce ne frega niente di suo figlio, noi non portiamo nessun messaggio. Questa è l'umanità di questa gente. Capisce però Pezzana, lei dice l'umanità di questa gente, però giustifica... No, voglio dire quello che è successo, cioè vite umane perse, poi insomma sono capisco che non mi controbatta che ci sono altre vite umane, certo, con la conta delle vite umane non ne usciamo più, però Pezzana. Qualcuna è da rimpiangere, altre invece muoiono nella totale indifferenza del mondo. Sentiamo, poi voglio tornare da Arrigoni, Walter dalla provincia di Trento, un ascoltatore. Walter, buongiorno. Sì, che dice lei? Ah, buongiorno. Sì. Ma io sono contro l'attacco di Israele, ma per un principio anche di internazionalità, nel senso che Se vige un diritto internazionale deve esistere in ogni caso, deve essere garantito, non lo possiamo far valere nei confronti dei pirati del Corno d'Africa piuttosto che di Gheddafi nei confronti dei nostri l'esercito israeliano dice hanno fatto che Israele possa attaccare tranquillamente ovviamente delle navi in acque internazionali, questo non si può. Allora questa è una vicenda, tutti dicevano che in acque internazionali sicurezza di Israele e ci mancherebbe altro, però questo non può andare a scapito di quello che è la legalità internazionale. Secondo altri sistemi la comunità internazionale interviene nel tantissimi stati, come basta vedere quello che si sta facendo in Afghanistan, quello che si sta facendo in Iraq. Non vedo perché non si possa anche intervenire in questi casi qua, evitando queste stragi che oramai sono veramente una cosa. Vabbè, ma che non può fare? Voglio dire, la comunità internazionale, l'ONU interviene, può censurare, può dire fate un'inchiesta indipendente, può condannare, può fare una risoluzione, ma poi insomma si sa, è pieno anche di risoluzioni che non vengono rispettate. Io ho un minuto, vorrei chiudere con Vittoria Arrigoni. Allora, ci ha già raccontato che la situazione a Gaza è di grande tensione, di cordoglio, di dolore e anche di pressione nei confronti delle Nazioni Unite. Ci ha raccontato anche di queste due navi che vanno avanti, ma secondo lei fanno bene, voglio dire, nel senso, non è il caso di dire perché sennò si rischia di arrivare veramente adesso a una prova di forza. Vorrei un attimo puntualizzare che l'avvocato dei genitori di Shalit ha contattato il Gaza Movement chiedendo di portare una lettera a Gaza al figlio. Si è reso disponibile un senatore irlandese a fare ciò, quando si è reso disponibile il senatore, l'avvocato della famiglia è sparito. Vorrei invece dire al giornalista del giornale, se deve preparare il pezzo, che la barca in viaggio verso Gaza, la Rachel Corrie, la nave cargo Rachel Corrie, non ha a bordo Bin Laden, bensì ha dei premi Nobel per la pace come Mairead Margrave e una sopravvissuta all'olocausto, un'ebrea di 85 anni, che si chiama Eddie Epstein. Io l'ho sentito, sono motivatissima a continuare la missione perché sentono l'urgenza umanitaria di portare degli aiuti a una popolazione qui a Gaza che dopo 4 anni di assedio è ridotta allo stremo delle forze. Gaza è sotto occupazione perché i suoi confini sono occupati e chiusi da Israele con la complicità dell'Egitto. E beh, che si può fare, voglio dire? Su questo ci apre un discorso molto ampio. Voglio dire, sotto occupazione, l'esercito israeliano si è ritirato e dice controlla i confini, certo la striscia di Gaza si entra in Israele, sa, non entrano solo delle mammolette. In ogni caso ci fermiamo qui, il discorso è molto aperto, molto ampio, vi ringrazio tutti, vedremo come vanno anche queste due navi che allora sono in viaggio verso Israele o verso la striscia di Gaza meglio. Ci fermiamo, grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea a Oscar Giannino, voi potete scriverci a bianco o nero e radio24.it, insulti soprattutto graditi. A domani.